voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. 18ª puntata. Poesia. Un giorno d'estate, un poeta che era molto vicino alla fine della vita stava seduto in una verandina della sua casa che dava sull'orto, una villetta di periferia. Non c'era nulla di poetico. La villetta era qualunque, l'orto minuscolo, altre villette strette intorno, ghiaia, cancelli, antenne televisive, qualche panno steso ad asciugare. Accanto a lui una contadina che era stata la sua balia, piccola, tutta vestita di nero, leggeva a voce alta e senza occhiali alcune prose che egli aveva scritto quando era in giovane età e girava il mondo. Il libro era intitolato Amori d'Oriente e quasi nessuno lo conosceva, come quasi nessuno sapeva che in quel luogo, senza nemmeno cicale, viveva ancora un poeta. Parlava di una Cina che oggi sembrerebbe quasi inventata. Tanto lontane erano quelle donne incipriate e coi pomelli tinti di rosso, quelle sete in cui erano avvolte, quei movimenti dei ventagli, dalla Cina d'oggi. Il poeta sapeva, colori e frusci che apparivano e sparivano come farfalle dalle righe da lui scritte con una penna stilografica pompetta, appartenevano a un'altra storia, a cui anche egli apparteneva, ma poiché era alla fine della vita, non gliene importava niente. Anzi, godeva di ammirazione alle avventure descritte con quelle parole svolazzanti, come se fosse stato un altro a scriverle, e mostrava l'ammirazione con cenni delle sopracciglia, con lievi movimenti della mano, quasi dirigesse un'orchestra, e con improvvise risate che lo facevano lacrimare. Talvolta aggiungeva parole come «che meraviglia», «il coniglietto rosa», «applausi» e rideva, «il mandarino fu», ma più spesso taceva e ascoltava in una immobilità quasi di Buddha. Una misteriosa malattia l'aveva ingrassato come un frutto enorme e proprio come intorno a un frutto troppo maturo, al limite della decomposizione, giravano moscerini e mosche in piccole nubi. Ogni tanto anche un'ape si posava sul suo volto senza pungerlo ed egli non se ne accorgeva, preso come era dalla lettura della contadina. Aveva un vecchio cappello di paglia, posto di sghimbescio sulla testa, dei capelli candidi e rasati. Gli occhi sembravano strabici, ma non erano, e mandavano brevi scintille di divertimento. Quasi tutto quanto accadeva nel libro fosse comico. Egli sapeva che la sua vita sarebbe durata ancora ben poco, ma, salvo qualche rapido schizzo di lacrime, comico anche quello, rideva di tutto allo stesso modo dei neonati. La contadina, che si sarebbe detta analfabeta, leggeva invece corretta e lenta, con qualche pausa, e alle risate del suo padrone anche lei sorrideva, sorpresa. Si fermava e diceva «Che sempio! Che sempioldo! Guarda come ride!» Intorno a loro non c'era affatto aria di malattia e di morte. La contadina era piccolissima e magra, anche se zoppa, e il poeta anche lui sembrava un contadino un poco rimbambito, ma non si era sicuri di questo perché gli occhi erano molto lucidi, ironici, e pieni di insensualità soddisfatta. Pareva impossibile che fosse quasi cieco. Arrivarono visite. Un uomo e una donna abbastanza giovani. La nube dei moscerini che aleggiava intorno al suo capo scomparve d'incanto, come si fosse disperso l'odore della frutta matura che li attraeva. E il poeta ebbe una certa difficoltà a riconoscerli, ma alla fine li salutò ridendo. Il cappello scivolò per terra e la contadina si alzò dalla sedia. Lo raccolse zoppicando e lo rimise in testa all'uomo. Anche la contadina salutò i nuovi arrivati e stava per offrire delle sedie quando il poeta disse, rivolto agli ospiti: «I miei amori d'Oriente, che libro!» E ancora fece un cenno di ammirazione golosa, come si trattasse di un cibo. «Avanti, vai avanti, Giovanna!» E la contadina, dopo essersi scusata con gli ospiti e detto al padrone che bisognava offrire acqua e anice dato il caldo, andò avanti nella lettura. I giovani ospiti si procurarono delle sedie e ascoltarono. Nessuno dei due realmente ascoltava una prosa che entrambi conoscevano molto bene e che nessuno avrebbe mai più scritto, ma in quel momento non riuscivano ad udire. Entrambi pensavano che il poeta sarebbe morto assai presto, perché questo si sentiva nonostante quell'aria di frutta matura, e forse invece proprio per questo. Il giovane ricordò una fotografia del poeta, seminudo al mare, asciutto, elastico e antico, e guardandolo ritrovò negli occhi la luce un poco pazza e strabica delle sue golosità marine, montane e campagnole. Durante la lettura della contadina, il giovane ospite fu stupito nel vedere il poeta ridere continuamente sprizzando lacrime e asciugarsi con dei Kleenex. Non c'era nulla di comico nella prosa che la donna andava leggendo metodicamente con i tempi di un metronomo. Eppure, sapendo che il poeta era portato a vedere negli ultimi tempi quasi tutto comico, non riusciva né a ridere né a divertirsi come lui. A un certo punto, una vecchia cagnetta bianca e nera, con una coda a ciuffo e degli occhi bianchissimi di fantasma, saltellò intorno ai quattro, disturbando la lettura, e anche a questo fatto il poeta rise con molte lacrime. Attirò a sé la cagnetta per un orecchio e, palpandola al ventre, con la bocca ricurva come quella di un'anguria vuota tagliata dai ragazzi in forma di testone ridente, disse: «È incinta un'altra volta!» e palpava. Parlarono di amici comuni e il poeta dimostrava di avere buona memoria, ma sempre si interrompeva per ridere. A volte nelle persone nominate c'era motivo di ridere, altre volte no. E sempre il giovane ospite non capiva, ma sentiva tuttavia di essere egli più giovane e sano, in ritardo mentale rispetto al vecchio. Ad un certo punto il poeta domandò alla contadina la rivista. La vecchia si alzò, sospirando e zoppicando andò all'interno della casa e ricomparve con una rivista illustrata, ma appena il poeta la vide disse di no. «No, non questa, l'altra con Apollo», disse infastidito e improvvisamente impaziente. Di nuovo la contadina sospirò. Tornò in casa e a voce alta dall'interno si rivolse agli ospiti. «Quale rivista? Ce ne sono tante di riviste, vuole sempre la rivista». Ma disse queste parole come sapesse molto bene di quale rivista si trattava e non ritenesse opportuno farla vedere davanti a degli estranei. Parve dicesse «brutto vizio» in un brontolio. Tornò con la rivista e gli occhi del poeta si illuminarono mentre tendeva la mano ad afferrarla. Era una qualunque rivista di piccolo formato che egli capovolse subito all'ultima pagina, completamente occupata da una fotografia di pubblicità. Prima diede un'occhiata. La contadina fece un lungo sospiro di rimprovero. Poi la porse agli ospiti con un cenno delle sopracciglia ancora nere e cespugliose, un cenno di immensa ammirazione. Entrambi gli ospiti guardarono l'immagine. Si trattava della pubblicità di una motoretta. Un giovane sui 18 anni, con i capelli neri, ricci e in blue jeans, accanto a una ragazza, la motoretta tenuta di lato, con un forte braccio scurito dal sole. Si guardavano e forse parlavano. Subito dietro di loro un cespuglio mediterraneo e in fondo il mare. Nulla più. Grande fu la sorpresa degli ospiti, che dall'atteggiamento di rimprovero della contadina e conoscendo il poeta, che era di una sensualità stramba e sempre allerta, pensavano un nudo, dei nudi, qualcosa che giustificasse la reticenza della contadina. Nulla, una banale oleografica illustrazione a colori, nemmeno perfetta nel colore, una pubblicità. Non capivano. Ma il poeta rideva. E c'era qualcosa al tempo stesso di infantile e di inquietante in quelle sue risate intorno a cui erano tornati i moscerini e negli occhi che a lampi apparivano strabici e come giapponesi, di grasso attore no. Il poeta ripeté quel cenno di ammirazione con la mano e l'atteggiamento delle labbra e si fece di colpo serio. Poco dopo gli occhi si inumidirono e una spruzzatina di lacrime parve schizzare in avanti come rugiada sul giornale. Puntò un dito sul braccio del ragazzo della fotografia, in un punto preciso, al polso. Gli ospiti guardarono, ma non vi era nulla. Solo il giovane ospite intravide in un punto di quel braccio abbronzato, di quel polso, un chiarore di pelle come di chi, dopo averlo usato sempre, al sole e al mare, si è tolto l'orologio. Chissà perché, parve al giovane ospite e alla sua compagna la vita, la bellezza della vita. La contadina zoppa era immusonita e brontolava. Tutto fu questione di pochi attimi. Povertà. Un giorno di novembre, una ragazza di campagna, con guance di pelle di bambina, andò in città a far compere. Non sapeva esattamente cosa doveva comprare, ma come molta gente di campagna era attratta e al tempo stesso respinta dai negozi della città. Attratta perché la scelta e la merce esposta erano molto più varie di quanto offriva il mercato settimanale del suo paese. E respinta per diffidenza nei confronti dei commessi sconosciuti, dei negozi troppo illuminati che facevano pagare il lusso della luce e soprattutto per i prezzi. Aveva un borsellino di cuoio rosso che scricchiolava e conteneva parecchio denaro guadagnato in quei primi mesi di lavoro in fabbrica. Era sempre stata povera, ora non lo era più. Voleva provarlo a se stessa e alla gente del paese, spendendo assolutamente quel denaro. Ma come? Non lo sapeva. L'aria era fredda e frizzante sulla sua pelle, come d'estate l'acqua minerale sulla lingua. Il cielo perfettamente azzurro si intonava al golfino bianco e azzurro fatto in casa e materia e colore delle cose. Il cielo, qualche minima nube bianca e la pelosità del golfino erano non solo in armonia tra di loro, ma in correlazione. Così anche la pelle bianca di lei. Il sole mandava grandi scintille di cartone animato battendo sugli occhiali. Anche il nome era in relazione all'azzurro, il bianco peloso, il rosa e le scintille. Paloma. Era nata in Argentina. Intorno a lei, al nome, al cielo, al golfino e alla pelle che aveva un vago odore di latte o latticini, c'era invece odore di concime animale, cioè l'orina di mucca che era stata sparsa il mattino presto sui campi, già bianchi di brina. Il terreno era piatto, essendo vicino al mare, ma si allontanava tra piccoli fumi bianchi e case e alberi, sempre più piccoli, fino a perdersi in una vaga foschia azzurrognola da cui sorgevano, lontanissime, le montagne, forse della Svizzera, forse dell'Austria. Qua e là i campanili, a punta, a torre, a palla, o storti, e i suoni. Paloma era eccitata. Dunque allegra come sempre quando chi è povero vuole spendere denaro e tornare a casa con molti pacchi. In questo stato d'animo salì in corriera e sedette accanto a una vecchia, quasi fuori dal tempo, anche lei con un borsellino stretto tra le mani insieme a un rosario. Paloma, non sapendo trattenere l'eccitazione, disse alla vecchia che andava a fare spese in città e lo disse come scambiando informazioni con una coetanea. «Stai attenta», disse la vecchia che aveva un po' di barba. «Tu sei giovane e in città sono tutti imbroglioni. Cosa devi comprare?» Alla domanda Paloma sentì di non poter rispondere subito perché non sapeva cosa avrebbe dovuto comprare se non vagamente, come ogni donna che va al mercato. «Dipende», disse, e parlò di certa biancheria intima e di un regalo per la famiglia. Così smise di parlare con la vecchia, che in certo modo rispecchiava il suo stato d'animo di diffidenza. Preferiva l'eccitazione. La vecchia esaminò a lungo il borsellino di Paloma, quasi con invidia, e proprio con invidia e con pensieri maligni disse: «E lo tieni così in mano, senza una borsa, senza nasconderlo. Beata te che non hai paura dei ladri». E mostrò che teneva il suo quando andava per la strada, in fondo a una lunga tasca del grembiule nero. Paloma scese in città e prima che al mercato settimanale che stava alle porte, più per la gente di campagna che per gli altri, si diresse al centro. Entrò in un caffè elegante e ordinò un cappuccino. Mangiò prima una, poi due, poi tre paste. Aprì il borsellino che teneva stretto in mano, che scricchiolò a lungo e pagò. Nel farlo vide occhieggiare le banconote più grosse negli scomparti e di nuovo l'eccitazione la prese. Girò per molti negozi senza entrare, negozi di borse, di scarpe, di biancheria e di vestiti belli e pronti, compresi jeans e maglioni. Guardò a lungo in vetrina un paio di stivali di camoscio che costavano 45.000 lire, ma lei poteva spendere anche di più e lasciò le vetrine dicendosi che sarebbe tornata dopo. Non vide nessun vestito che le piaceva e già questo primo fatto tramutò in ansia l'eccitazione. Erano tutti privi di colore. Il loro colore era sempre quello, in varie sfumature, dal caffè latte al marron. E Paloma avrebbe voluto vedere nelle vetrine di città qualcosa di rosso o a fiorellini che valesse la spesa per la diversità. Vide un vestito quasi trasparente, che però era verde sfumato, con la gonna a pieghe. Decise, ma la sua decisione, come naturale, non era poi così decisa, di entrare. Chiese alla commessa il vestito, lo guardò bene, lo toccò tra due dita, poi la commessa la invitò a provarlo. Entrò nello sgabuzzo, si tolse i pantaloni e il golfino, aveva però una maglietta da inverno, sopra cui infilò il vestito. Appena indossato non le piacque più, anche a causa della maglietta che occhieggiava poveramente attraverso la stoffa. E comunque, durante tutto il tempo della prova, del resto brevissimo, pensò con paura e vergogna al prezzo enorme, 140.000 lire. La commessa si infilò nello sgabuzzo e con voce distratta, parlando anche con qualcuno fuori dallo sgabuzzo, aprendo la boccuccia rossa scura e lucida tra molti trucchi del volto e gli indumenti casual che a Paloma parvero molto ridicoli, disse che il vestito favoloso le stava divinamente. Questo modo di parlare, che Paloma si trovava sempre tra i piedi, anche tra le compagne di lavoro in fabbrica, fece riaffiorare in lei la diffidenza per i commessi, che era stata ben nutrita dalle due o tre parole della vecchia col rosario in corriera. Sorrise alla commessa pensando: «Favolozzo divino, a me non la fai, cara», ma disse: «Non lo sento bene addosso». E intanto, con tutta fretta, come una che scappa, stava levandoselo di dosso perché temeva che, tenendolo ancora sul corpo, era come se l'avesse già un poco comprato. Ma la commessa insistette perché si togliesse la maglietta e lo provasse un'altra volta soltanto con il reggipetto e lo slip. E intanto disse: «Con una figura come la sua non c'è bisogno di magliette. Quando si ha una figurina così...» E Paloma arrossì e le disse nel pensiero: «Sì, marameo». Paloma dunque indossò, ma si spogliò anche subito perché nel riprovarlo pensava all'astuzia della commessa che pareva aver già venduto, già fatto il pacco. «E poi è troppo estivo», disse Paloma, tutta rossa in faccia per vedersi mezza nuda e coperta dell'abito trasparente. Se lo levò, senza l'aiuto della commessa, che aveva chiuso definitivamente la boccuccia rossa, anzi, la strinse come per un bacio e rigirò gli occhi. Paloma fu un'altra volta sulla strada e si avviò decisa questa volta a comprare gli stivali. Entrò molto più calma e chiese, indicò la vetrina: Una commessa scomparve verso il soppalco del grande negozio e arrivò con la scatola che si aprì tra due ali di carta velina sottile e profumata. C'era un solo stivale che Paloma infilò. Andava benissimo. Era tutto foderato di pelliccia e si sentiva molto bene, proiettando il benessere per tutto l'inverno. Disse che li comprava. «Aspetti, provi anche l'altro», disse la commessa e andò alla ricerca dell'altro stivale, prima in negozio, poi confabulando con la padrona alla cassa, piena di ori e collane. Fu scovato in vetrina e, con una lunga pinza, riportato dentro. Ma era un numero più piccolo. Insomma, non andava bene. Paloma fece grandi sforzi perché andasse bene, ma lo stivale non entrava. Quasi stava per comprarli lo stesso, contro il parere della commessa, pensando che col tempo si sarebbe adattato. Uscì dal negozio a mani vuote e fu presa dallo scoramento e dalla rabbia. Doveva comprare qualcosa, possibile che niente andasse bene. Lei non era povera e ora aveva il denaro per comprare quello che voleva. Il dispiacere di non aver comprato nulla fino a quel momento diresse i suoi passi verso il mercato, dove guardò ad una molte bancarelle e chiese i prezzi. Si rassicurò, si sentì a suo agio. Non erano quelli del centro città, erano più accessibili a lei, erano prezzi più giusti. Ma perché più giusti? Lei avrebbe potuto spendere quello che voleva. Spendevano le altre? E anche lei avrebbe speso. Ma intanto era al mercato e non nei negozi del centro ed era quasi mezzogiorno. Sedette dentro il caffè del mercato per pensare meglio. Ordinò un panino con la porchetta e un bicchiere di vino bianco. Appena assaggiato il panino, anche i soldi del panino, che erano pochissimi, erano però bene spesi. E quando aprì il borsellino, questo scricchiolò consenziente e si aprì quasi da solo in segno di approvazione. Cosa aveva visto Paloma nei negozi e nel mercato? Niente che le fosse veramente piaciuto, nessun colore, nessun vestito, salvo gli stivali per i quali ancora si sarebbe messa a piangere. Ma subito, con la inarrestabilità della gioventù, passò in rassegna altre cose, reggipetti e mutandine firmati, due piccoli pettini da infilare alle tempie, rossi, che poteva comprare anche subito ma che costavano pochissimo, e poi gli anellini d'oro degli orefici, ma quelli avrebbe voluto riceverli in regalo e non comprarli. Aveva visto poi un paio di zoccoli, ma così di passaggio, col pelo dentro, ma quelle non erano spese importanti, spese da città come un cappotto, un paio di scarpe, una borsa, una pellicetta, un vestito elegante. Quelle erano cose povere che avrebbe potuto comprare al mercato del paese. Prese ancora tempo e andò alla cabina del bar per telefonare a un suo amico. Ma subito, fin dalle prime parole, un ragazzotto, una specie di travolta con grandi ricci neri e pantaloni larghi e scarpette a punta, cominciò a tempestare il vetro della cabina. Paloma, che non poteva parlare, diventò rossa dalla rabbia. Per un po' cercò di non fargli caso, ma poi aprì la porta e disse strillando: «Io pago gli scatti quanto lei, posso telefonare quanto voglio». «È mezz'ora che stai lì dentro, stronza», disse il ragazzotto. Paloma si sentì soffocare. Aveva il cuore in bocca. «Stronzissimoissimo», rispose e chiuse la cabina contro cui il ragazzo continuò a tempestare. «C'è uno qui fuori dalla porta che batte il vetro. Non posso parlare, ma ho diritto anch'io. Pago anch'io gli scatti come lui», disse all'amico con voce ancora strillante. Era molto agitata e salutò anche l'amico, rimandò la telefonata, uscì. «Stronza! Stronzo tu, grande come una casa!» Si scambiarono Paloma e il ragazzo con una mano in tasca e la punta dello scarpino a terra e Paloma uscì all'aria. A passi veloci si avviò al banco delle scarpe dove c'erano gli zoccoli con il pelo. Scoprì che non erano di pelle ma di finta pelle e perciò costavano così poco. Quelli però andavano bene, li comprò. Costavano pochissimo. Aprì il borsellino che scricchiolò pigramente ed estrasse una delle banconote più alte, nuove, per cambiare. Quel gesto e il fruscio e lo schiocco del foglio da 50.000 tra le sue dita diedero a Paloma un po' di pace. Lo si vide dagli occhi e dalle guance. Gli occhi accennarono a un sorriso senza sorridere. Sulle guance si formarono due fossette, come dire: «Posso spendere». Ma fu un attimo che trasudò alcune gocce di sudore sotto le ascelle e si prolungò comprando un piccolo mazzo di garofani rossi. Un attimo. In realtà, dentro il borsellino era rimasto quasi tutto il denaro e non era contenta. «Cosa ho in mano?» pensò quando fu seduta nella corriera, col timore di aver sudato troppo, tanto si sentiva bagnata sotto le ascelle. «Niente, non ho comprato niente. Tutta colpa di quella vecchia». Continuò a pensare e arrivò al paese che la luce, il sole, non erano più così carichi di luce come il mattino. Il concime, riscaldato al sole nei campi, odorava. Paloma era, però, un poco impaziente di provare di indossare gli zoccoli col bordo di pelo bianco. Per la sera in discoteca. E poi, il giorno dopo, era domenica. Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.